Salve Chiesa, buongiorno. Come stiamo? Bene. Allora, io voglio... Sì, come stiamo al plurale? Perché me lo devo chiedere pure io come sto. E sto bene. E sono sveglia. E sono pronta a crescere nella parola di Dio. E voi? Allora, facciamo subito un accordo, perché vi svelo un piccolo segreto. L'ultima volta che ho predicato di domenica mattina, me ne sono andata a casa piangendo. E non è un modo di dire, stavo piangendo proprio con le lacrime. Perché? Perché credevo che il messaggio non fosse passato, cosa che in realtà non era così. Perché il messaggio passa, perché lo Spirito Santo c'è, perché la potenza di Dio parla attraverso la sua parola. Però accanto a tutto questo è bello vedere una chiesa reattiva, sì? Che cosa significa? È bello vedere, è bello sentire che quando dico, quando leggo qualcosa di bello dalla parola di Dio, la chiesa risponde in maniera gloriosa. Facciamo una prova? Facciamo, Elijah, ci sei? Vogliamo fare una prova? Mi sostieni? Ok. Per esempio, se io oggi leggessi dalla parola di Dio, Dio è buono? Ok, questo l'ho rubato al pastore. Però se leggessi qualcosa come Dio che va oltre ogni nostra immaginazione, ogni nostra preghiera, ogni nostro sentimento, Lui va oltre perché è più grande, la sua chiesa risponde? Amen. Amen. Bellissimo. Ora questo è l'inizio. Questa atmosfera bellissima, c'è sempre all'inizio, l'obiettivo è portarla avanti, fino alla fine del messaggio, fino alla fine dei tempi, perché Dio è degno, amen? Perché Lui merita ogni gloria e ogni onore, anche in questa maniera, sì? E io vi prometto che non griderò. Eh? Facciamo questo accordo, voi mi rispondete e io non grido, ok? Tutte le persone che, diciamo, hanno un po' di problemi con il mio tono di voce sono molto felici in questo momento, vi posso vedere. Però è un accordo, va bene? Quanti sono qui per la prima volta? C'è qualcuno che è qui per le prime volte? No, ok, va benissimo, cioè non tanto benissimo, sarebbe bello se ci fossero 50 persone per la prima volta, ma verranno stasera. Ok, quindi questo sarà un tempo di famiglia, va bene? E in questo tempo vogliamo aprire la parola di Dio, ma ancora di più vogliamo aprire i nostri cuori. Vogliamo allineare i nostri cuori, la nostra mente, i nostri pensieri, i nostri sentimenti a quello che Gesù oggi vuole dire alla sua Chiesa attraverso la sua parola. Lo sappiamo che tutto quello in cui crediamo, tutto quello che facciamo dal primo secondo di questo incontro all'ultimo secondo e anche dopo, lo facciamo perché c'è scritto nella parola di Dio. Tutto quello che viviamo, tutto quello che crediamo di Dio e della nostra vita in Lui, lo crediamo perché c'è scritto. E se c'è scritto, è degno di essere seguito, è degno di essere onorato e ha bisogno di tutta la nostra fede. Amen? Quindi leggiamo insieme. Solo un paio di versetti oggi vorrei analizzare insieme a voi. E si trovano questi versetti nella prima lettera di Pietro, capitolo 1, dal verso 17 al 19, dovrebbero essere proiettati così li possiamo leggere tutti insieme. E dice così: e se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili come argento o oro siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Amen? Comportatevi con timore. Oggi, questa mattina, È questo il cuore, il messaggio principale di quello che è, di cui parleremo. Comportatevi con timore. Può essere un messaggio, non so, che può sembrare un po' strano, perché di solito siamo incoraggiati a non avere timore, siamo incoraggiati a essere coraggiosi, ma vedremo come la parola di Dio in alcune occasioni, sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento, ci comanda, ci educa, ci chiama, ci incoraggia a camminare con timore, ad avere timore di Dio. Se hai letto la Bibbia per più di 3 mesi di seguito, o se hai letto più di un libro nella Bibbia, sia nel Vecchio che nel Nuovo, ti sarai certamente trovato di fronte a versetti che nominano il timore di Dio. Versetti come, per esempio, il timore dell'Eterno è il principio di ogni... Bene, allora, l'accordo, ce lo ricordiamo? Il timore dell'Eterno è il principio di ogni conoscenza. Oppure versi, non so, in modo specifico nel Pentateuco, che dicono tipo: temerai il Signore Dio tuo e lo servirai e lo onorerai. Ma anche versetti nel Nuovo Testamento, come quello che si trova in Atti 9, e dice così, è meraviglioso, io l'ho letto per la prima volta davvero questo versetto qualche giorno fa, e dice: così la Chiesa per tutta la Giudea, la Galilea, la Samaria aveva pace ed era edificata, e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo cresceva costantemente di numero. Questo può essere un versetto tranquillamente dedicato alla nostra chiesa. È la chiesa di Modugno e di Mottola, e qualunque chiesa tu faccia parte, se ci stai seguendo in streaming, aveva pace, aveva fede, era edificata e camminava nel timore del Signore. Vediamo che il tema del timore, di camminare con timore, è un tema abbastanza vasto nella parola di Dio. Ci sono circa 300, aspetta che me lo sono scritto, 385 versi, nei quali per 400 volte in totale è citato il timore di Dio. Che cosa significa? Deve essere importante, perché se per 400 volte nell'intera Bibbia, Vecchio e Nuovo, Dio ci incoraggia a camminare con timore, ad avere timore, deve essere importante. È importante che capiamo che cosa significa, che cosa implica camminare in questo modo, così che possiamo adempiere alla volontà di Dio. Sappiamo tutti che Dio è buono. Ok, lo sappiamo. Lo sappiamo che non dobbiamo avere paura di Lui. Non siamo chiamati ad avere paura della sua presenza, o paura della sua potenziale o imminente punizione, perché non c'è, perché Dio è buono, perché Dio ci ha perdonato attraverso il sacrificio che Gesù ha fatto, grazie a quel sacrificio. Eppure qui c'è scritto di avere timore. Quindi già possiamo comprendere che paura e timore sono due cose completamente distinte. Nel Vecchio e nel Nuovo Testamento la parola timore, associata in riferimento a Dio, vuol dire rispetto, vuol dire dare onore profondo, vuol dire avere quel timore reverenziale. Vi è mai capitato di incontrare, non so, una persona che ha molta autorità su di te? Tu non è che vai lì dalla pacca sulla spalla e lo chiami, ehi, cioè hai quel tipo di timore, di rispetto. Questo, elevato all'ennesima potenza, è quello che Gesù, che Dio ci sta incoraggiando ad avere. È quella consapevolezza di chi Dio è quella consapevolezza di chi noi siamo nei confronti di Dio, che ci porta ad avere quel timore reverenziale, quel rispetto, quell'onore che si traduce in che cosa? In adorazione. che si traduce in servizio, che si traduce in una vita consacrata a Lui, che si traduce in ubbidienza. Il timore di Dio si traduce in queste quattro cose: adorazione, consacrazione, servizio e ubbidienza. Questo modo di intendere il timore di Dio è giusto. Non è paura, è rispetto, è onore. Ma io mi chiedo, mi sono chiesta, se camminare nel timore non voglia dire qualcosa di più. Perché spesso mi è capitato di dire, quando volevo spiegare questo timore di Dio, mi è capitato di dire, no, non è che non deve avere paura, riguarda solo il rispetto. Sai, con questa accezione, è come se il rispetto fosse meno prezioso, meno profondo, meno grave. Vi è mai capitato di spiegarlo in questa maniera? No, non devi avere paura, devi avere rispetto. Secondo me, e secondo quello che scopriremo insieme nella parola di Dio, c'è tanto, tanto di più. Questo camminare nel timore di Dio implica tanto di più. E lo cerchiamo di capire insieme. Rileggiamo il primo verso che abbiamo letto insieme poc'anzi. Se invocate come padre, ripeti com'è, padre, colui che giudica senza favoritismi, comportatevi con timore. Cioè, se puoi chiamare Dio padre, allora comportati con timore. Questo è quello che c'è scritto. C'è scritto, Chiesa, Noemi, se puoi chiamare Dio, il creatore, colui che vive da eternità passata e vivrà per l'eternità futura, colui che ha aperto bocca e le stelle sono state create, colui che ha respirato e l'uomo è nato, colui che ha tutta la potenza, tutta la conoscenza, tutta la forza, se puoi chiamare questo Dio tuo padre, allora comportati con timore nei suoi confronti. Vi ricordate quello che c'è scritto in Romani 8:15? Ora non vi è stato dato uno spirito di paura, ma uno spirito di adozione per il quale potete chiamare Abba, padre. Di nuovo qui, non c'è uno spirito di paura, ma c'è uno spirito di adozione secondo il quale, in base al quale, possiamo chiamare Dio padre. E qua ci dice, la Bibbia ci insegna, se puoi chiamare questo Dio tuo padre, allora comportati con timore. Ci risulta un po' strano questo, perché secondo la logica umana, secondo almeno la mia logica, dovrebbe succedere esattamente il contrario. Cioè, se io posso chiamare padre Dio, allora perché mi devo comportare con timore? È mio padre, è intimo, è mio padre, mi ama, mi perdona, è dalla mia parte. Perché mi devo comportare con timore? E questo è giusto, ma solo per metà. Perché ci risulta difficile collegare la parola timore alla parola padre, perché molto spesso noi guardiamo il padre, Dio padre, con occhi troppo umani, troppo influenzati dalla cultura nella quale viviamo. E qual è la cultura nella quale viviamo? Com'è il rapporto padre-figlio? Pensateci, nella cultura nella quale oggi possiamo ascoltare nostro padre e possiamo anche non fare quello che ci dice. Nel rapporto padre-figlia possiamo scegliere di prestare attenzione o di ignorare le parole che nostro padre ci dice. La disubbidienza, la mancanza di rispetto è un'opzione. Attorno a noi ci sono dei figli che considerano i propri papà allo stesso livello, come persone alla pari, piuttosto che come autorità scelte da Dio sulla loro vita. Oppure ci sono papà che si mettono a quel livello. No, vabbè, siamo amici. piuttosto che come autorità. Tutto questo ci porta, causa difficoltà, non ci fa capire bene che significa che se posso chiamare Dio Padre, devo camminare con timore. Perché il paragone è con i nostri padri naturali che lo facciamo. E spesso noi trattiamo Dio Padre proprio così. Quando Lui ci dice di fare qualcosa e noi lo ignoriamo. Quando Lui ci chiama a ravvederci da un vizio, da una dipendenza, da un peccato e noi ci voltiamo e facciamo di testa nostra. Quando nella parola di Dio scegliamo le parti che ci piacciono e che vogliamo mettere in pratica e scegliamo e selezioniamo le parti invece che sono troppo difficili e le ignoriamo. Perché facciamo questo? Sono solo io che ho questo atteggiamento alcune volte nei confronti di Dio? Mi date un colpo per piacere? Perché facciamo? Perché abbiamo questo atteggiamento? Perché in fondo non proviamo quella riverenza nei confronti di Dio? Perché in fondo abbiamo perso quel timore del Padre che dice e del Figlio che ubbidisce, del Padre che istruisce e del Figlio che segue, senza discussioni, senza condizioni, non per paura di essere puniti, ma per timore, per rispetto, per onore, per fiducia che abbiamo nei confronti del nostro Dio. Se invocate come Padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, allora comportatevi con timore. Il timore qui è nei confronti del Padre, come abbiamo detto, ed è in riferimento al suo giudizio. Il Padre, colui che giudica senza favoritismi. Dio Padre è colui che giudica senza favoritismi. Non c'è un gruppo etnico preferito da Dio, né ebrei, né gentili, né italiani, né americani. Siamo tutti uguali davanti a Dio. Non c'è livello di istruzione che possa portare Dio ad essere più clemente o a chiudere un occhio. Non c'è livello di simpatia, non c'è abilità, non c'è capacità che possa condizionare il giudizio che Dio Padre avrà su di noi. Dio Padre giudica senza favoritismi l'opera di ciascuno. In altre parole, ciò che io e te facciamo in questo tempo che ci è permesso di vivere su questa terra sarà giudicato da Dio e sarà premiato da Lui quando saremo al suo cospetto, faccia a faccia. Li porteremo davanti le opere che abbiamo fatto per onorarlo, per farlo conoscere, per far crescere la sua Chiesa. Le porteremo davanti a Lui come un sacrificio di adorazione. Lo dice ancora meglio, lo leggiamo insieme questo, Filippesi 2,12. E qui chiaramente Paolo che sta parlando alla Chiesa, a Filippi, dice così miei cari, voi che foste sempre obbedienti, e la Chiesa dei Filippi era molto obbediente, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, fate questo, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Vedete, qui timore è accostato da tremore, devi tremare. Quindi vediamo come timore sì è rispetto, ma c'è qualcosa di più profondo. Con timore e tremore fate che cosa? Adoperatevi al compimento della vostra salvezza. Adoperatevi significa datti da fare, impegnati, prodigati per il compimento, per la fine, per il completamento, per il completamento della tua salvezza. Adoperati, datti da fare per l'adempimento, per la fine della tua salvezza. Che significa? È chiaro, E questo è molto importante che noi tutti lo capiamo fino in fondo. È chiaro che qui Paolo non sta parlando, non sta incoraggiando la Chiesa a darsi da fare, ad adoperarsi per ottenere la salvezza. Perché la salvezza è un dono, è per grazia. In Efesini 2:8 c'è scritto: or siete stati salvati per grazia. E questo è un dono di Dio affinché nessuno si possa gloriare. Noi siamo salvati, siamo stati riscattati da quella condanna eterna dal sacrificio di Gesù. Non abbiamo fatto nulla per meritarcelo, ma siamo stati salvati perché Lui ci ama e per il suo sacrificio. Ma qui Paolo dice: adoperati per il completamento della tua salvezza. Che significa? Ha più a che fare, Paolo sta parlando di più su come viviamo la nostra salvezza. La salvezza che abbiamo già ottenuto, come la stiamo trattando? Cosa ne stiamo facendo? Come la consideriamo questa salvezza? Sapete, io un mese fa ho compiuto 30 anni. Lo so, che sembro proprio una bambina invece. Eppure invece sono 30 anni, che non sono così tanti. I miei amici mi hanno portato fuori, mi hanno onorata, mi hanno festeggiata e mi hanno regalato questo paio bellissimo di perle, perché tutti sanno che io ho un debole per le perle. Ora, queste sono perle non dei cinesi. Lupoli, non le hai comprati dai cinesi? Sono perle preziose, sono di mare, sono bellissime, luccicano pure al buio, cioè sono fantastiche e me le hanno date con tanto di garanzia. Ora, perché ho capito che insomma si trattava di perle molto preziose? Non perché io ci capisca tantissimo, ma perché i miei amici mi hanno proprio ripetuto allo sfinimento: Noemi, raccomando, la garanzia. Noemi, non perdere la garanzia. Noemi, dove l'hai messa la garanzia? Allora, questo mi ha fatto capire che, insomma, qualche cosa di più di 10 euro le hanno pagate queste perle. Sono preziose. E io non ho fatto assolutamente niente per meritarmele. Zero. I miei amici me le hanno regalate perché mi amano. E sono mie. Ora sono mie. Nessuno me le può togliere, ma io ora posso scegliere come trattarle. Posso scegliere come trattarle queste perle, se prendermene cura, se metterle nel cofanetto, se stare attenta a non bagnarle. Devo stare attenta a non perderle. Posso scegliere di continuare ad essere grata a tutti gli amici che me le hanno regalate, oppure posso scordarmi di quanto preziose sono queste perle e maltrattarle. E facendo così, disonorerei anche chi me le ha regalate. Capite? Questo è quello che il verso che abbiamo letto ci insegna. Che la salvezza è nostra per grazia. Ce l'abbiamo tra le mani. Ma che cosa ne stiamo facendo? Come la stiamo trattando? Questo regalo meraviglioso che abbiamo ricevuto, come lo stiamo trattando? Paolo ci incoraggia a trattare bene la nostra salvezza, ad adoperarci con timore e tremore per vivere una vita degna della salvezza che abbiamo ricevuto, per vivere una vita che rispetti questo dono che abbiamo ricevuto. È un po' come il matrimonio. Ora, il primo esempio è per esperienza personale, il secondo, diciamo, è per sentito dire, perché insomma, meno male, ok, sto facendo di tutto. È come il matrimonio. Il sì all'altare è un inizio. Il sì all'altare ti dà un nuovo status. Quando dici sì, diventi marito e moglie. E lo sei davanti alle persone, davanti alla società, davanti alla legge. È il tuo nuovo status, è la tua nuova identità. Ma pensa un po', che cosa succederebbe se il marito o la moglie dicesse: me, vuoi sentire, ma è fatta, ora mi sono sposato, la fede al dito ce l'ho, ora posso ritornare a fare quello che mi pare e piace. Posso scegliere di non parlare, di ignorare mia moglie, posso scegliere di non vivere proprio con lei, posso andarmene, posso scegliere di avere anche qualche scappatella quando mi pare e piace. Che cosa è questo? Questo certamente non è un atteggiamento, non è un cuore che onora e che rispetta il matrimonio. Che onora e che rispetta quel patto, quel dono che abbiamo tra le mani. Questo è quello che Paolo ci sta insegnando, sia in Filippesi e sia nella lettera di Pietro. La salvezza l'abbiamo ricevuta per grazia, ma questa salvezza deve essere seguita da uno stile di vita, da un comportamento, da un parlare, da un modo di pensare, da un relazionarsi che onori la salvezza stessa, che rispetti quello che Gesù ci ha donato. Amen? Una vita caratterizzata dal timore di Dio è una vita che giorno dopo giorno si adopera, si dà da fare, combatte il proprio carattere, combatte la propria carne, combatte le tentazioni, perché ha timore di offendere Dio, perché trema all'idea di sminuire, di trattare male la salvezza che abbiamo ricevuto. Una vita che cammina nel timore di Dio è una vita che si dà da fare per l'avanzamento del regno di Dio, per la crescita della Chiesa, per la predicazione, la promulgazione del Vangelo. Queste sono le opere che quando saremo davanti a Dio, Lui giudicherà. Queste sono. Siamo già salvati ed è proprio perché siamo salvati che possiamo vivere una vita piena di queste opere che profumano di eternità. E io non lo so, Chiesa, come sarà. Non so, ho studiato, ho un sacco di versetti, però bene bene non ho capito come sarà e quando sarà. Però una cosa so. Chiesa, ascoltami bene, una cosa so. E so che lo sai anche tu, che sarà troppo bello stare davanti a Dio, davanti al nostro Dio Padre, e dirgli, ecco, questa è la mia vita, questo è quello che ho vissuto con te. E devo dirti, Dio, è stato molto difficile esserti fedele sempre, però ecco la mia perla. È stato difficile resistere a ogni tentazione. È stato difficile mantenermi puro. È stato difficile, però ecco, grazie a te, grazie al fatto che tu vivevi in me, ecco, queste sono le mie opere. È bello, ti sono stato fedele, sono stato pieno di zelo, sono stato gioioso anche nei momenti difficili. Sarà troppo bello dirgli, Gesù, ho dovuto combattere, mi sono dovuta adoperare contro gli impegni, contro il tempo che non c'era, contro le distrazioni, ma guarda, sono cresciuta attraverso la lettura, lo studio della tua parola ed è stato troppo bello crescere alla tua presenza. Sarà troppo bello dirgli, sono stato sempre fedele a mia moglie, sono stato sempre fedele a mio marito. Ho governato bene la mia famiglia, ho lavorato secondo i tuoi principi, secondo quello che tu mi hai lasciato scritto nella parola. Sarà bello dire, Gesù, guarda, ho vinto quella dipendenza insieme a te, ho vinto quel vizio, quell'invidia, te la ricordi? Mamma mia, quanto mi mangiava dentro quell'invidia, però ecco, l'ho vinta. Questa è la mia vita. Questa è stata la mia vita con te. Quelle giornate spese in chiesa, quelle riunioni finite tardi, quel viaggio missionario, quello stare, fare, dare costantemente. Queste sono le opere che ti porto dinanzi, che tu possa giudicarle bene. Quanto sarebbe bello? Quanto sarà bello quando offriremo questo a Dio. E sarà ancora più bello sentire le sue parole dire: bene, bene, bravo e fedele servitore. Sarà troppo bello. 2 Corinzi 7:1 dice: purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Io voglio vivere così. Io non voglio vivere solo da persona salvata, ma da persona che è chiamata e che abbraccia una vita santa. Voglio essere una persona che si dà da fare, che corre, che persegue, che ha timore e tremore verso quella vita santa, irreprensibile. E tu? Certo che lo vogliamo. Quali sono le cose, quelle aree della nostra vita dove sappiamo che non stiamo vivendo con quel timore, con quel rispetto? Quali sono quelle aree nella nostra vita che in fondo, e forse non tanto in fondo, non onorano Gesù? Non onorano il suo sacrificio? Oggi abbiamo la possibilità di riflettere su questo e di cambiare e di incominciare ad adoperarci per la nostra salvezza, per la nostra santificazione con timore e con tremore. Amen? Il verso si conclude così e dice, cominciamo dall'inizio, comportatevi con timore, verso 18, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o oro siete stati riscattati, ma con il prezioso sangue di Cristo. Allora, perché? Perché vogliamo condurre, comportarci con timore? Perché vogliamo vivere una vita con timore e tremore? Certamente l'abbiamo detto, non è per essere puniti da parte di Dio, perché siamo stati salvati, siamo stati perdonati, ma perché so che quel riscatto è costata la vita di Gesù. So che io non sono stata comprata con cose effimere, come oro, argento, ma io sono stata comprata, sono stata riscattata, sono stata resa una donna nuova, un'eredità incorruttibile mi è stata data perché Gesù ha versato il suo prezioso sangue. E l'ha fatto non per riavermi perfetta, pulita e santa, ma l'ha fatto, ha pagato quel prezzo grandissimo per riavermi rotta, ferita, sporca, perché lui poi mi ha pulito, perché poi lui mi dà la possibilità di vivere, di condurre una vita nel timore e nel tremore per adoperarmi alla mia santificazione. Il sacrificio di Gesù è troppo, troppo prezioso, troppo grave, troppo profondo. Ed è tanto prezioso, Chiesa, che io tremo al pensiero di poter fare qualcosa che sminuisca quel sacrificio. Io tremo al solo pensiero di poter offendere Dio perseverando nei miei peccati. Io tremo al solo pensiero di poter condurre una vita macchiata, che non onora Dio. E non sto dicendo che non dobbiamo peccare, è chiaro, lo sappiamo tutti, ci conosciamo, pecchiamo, ma io sto parlando di perseverare nel peccato. Di quando pensiamo, e forse non lo diciamo, ma lo pensiamo, vabbè dai, tanto Gesù poi mi perdona. Tanto Gesù è morto per i peccati presenti, passati e futuri. Questo poi è perdonato, sta pagato. Chiesa, questo atteggiamento, questo cuore, non è un cuore che ha timore di Dio. Non è una vita che è condotta con timore e con tremore. Bonhoeffer, e con questo concludo, è un teologo tedesco, tutti i veri teologi sono tedeschi. e parla di cheap grace and costly grace, di grazia economica e di grazia costosa. E dice questo, lo leggo dal suo libro, dice: la grazia economica è la predicazione del perdono senza esigere pentimento. È il battesimo senza disciplina di chiesa. È la cena del Signore senza la confessione dei peccati. La grazia economica è grazia senza discepolato. È grazia senza croce. È grazia senza Gesù, vivente e incarnato. Condurre una vita senza timore di Dio, dove la salvezza non è seguita da una vita che si santifica grazie all'opera dello Spirito Santo giorno dopo giorno, è una vita che tratta il sacrificio di Gesù in maniera economica, che tratta queste perle come se fossero veramente comprate dai cinesi. Scusate questo esempio, però è affinché non ci scordiamo. La verità non è questa, e noi Chiesa sappiamo qual è la verità, perché io posso guardare la vita di ognuno di voi e dire con orgoglio: sì, loro sono salvati, ma loro stanno anche vivendo una vita santa, irreprensibile. Loro hanno timore, noi come Chiesa abbiamo timore di Dio. Vogliamo condurre una vita con timore e tremore, perché sappiamo che, e leggo ancora le parole del teologo, sappiamo che la grazia è costosa. La grazia è costosa perché ci chiama a seguire, ma si tratta di grazia perché ci chiama a seguire Gesù. È costosa perché ci chiede di rinunciare alla nostra vita, ma è grazia perché ci dona la vera vita. È costosa perché condanna il peccato, ma è grazia perché perdona il peccatore. La grazia è costosa perché è costata cara a Dio, le è costata la vita di suo figlio. E Chiesa, ascoltami bene, ciò che a Dio è costato così caro non può essere trattato da noi come qualcosa di economico. Non può, non può, è troppo prezioso, è troppo vitale, è troppo profondo. Oggi Dio ci invita ad abbracciare la sua grazia in tutta la sua interezza, considerando il costo di quella grazia, di quella salvezza. Allora Chiesa, il mio incoraggiamento, il mio cuore per me prima di tutto e poi anche per voi è quello di tremare. Tremiamo solo all'idea di disonorare il sacrificio che Gesù ha fatto per noi. Tremiamo solo all'idea di poter vivere una vita che non onora Gesù. Camminiamo invece con timore e con tremore, conducendo una vita che scappa dal peccato, che resiste al peccato, che non persevera sempre negli stessi peccati, ma che cresce in santità, che cresce in timore. Adoperiamoci al compimento della nostra salvezza, perché quella salvezza è un dono gratuito, ma non è mai stato economico, mai. Viviamo insieme una vita che è guidata dall'aspettativa di sentire quelle parole: bravo, bravo, buono e fedele servitore. Amen? Perché non ci alziamo? E io vorrei pregare con voi affinché noi possiamo continuare ad essere una Chiesa che cammina con il timore di Dio. E oggi abbiamo capito che cos'è, una parte di quello che è il timore di Dio, che ci sono così tante sfaccettature. Ma questa, una parte di quello è la consacrazione, è camminare una vita che onora Gesù, che non maltratta, che non sminuisce il suo sacrificio. Amen? Possiamo chiudere gli occhi E io ti prego, Gesù, che tu ci possa aiutare a vivere questa vita. Dio, grazie perché... grazie perché tu sei stato disposto a dare tuo figlio per noi. E ti è costato tanto, Dio. E noi non vogliamo, tremiamo all'idea di vivere una vita che tratta questo sacrificio come qualcosa di economico. Gesù, aiutaci a vivere una vita con timore, ad adoperarci alla nostra salvezza con tremore, ad essere una chiesa santa, ad essere una chiesa che ti compiace, ad essere uniti a te e a camminare, a correre in santità verso nuove conquiste, verso la sconfitta, il superamento di dipendenze, di vizi. Gesù, io ti prego per ogni relazione che non ti onora, che non onora il tuo sacrificio. Aiutaci, Gesù, a vivere nelle nostre relazioni la tua salvezza. Padre, io ti prego per ogni peccato qui presente nel quale stiamo perseverando. Tu conosci i nostri cuori, tu vedi la nostra vita e tu ci vuoi salvare, ci vuoi continuare a salvare, ci vuoi continuare a far crescere in quella santità. Ti prego, Gesù, fallo e che i nostri cuori possano essere ammorbiditi dal tuo spirito, che le nostre menti possano essere allineate alla tua volontà e che possiamo camminare con timore e con tremore, vivendo dei giorni che onorano il tuo sacrificio e collezionando tante opere che ti danno la gloria, che ti danno l'onore, perché noi vogliamo sentirci dire bravo, buono e fedele servitore e vivere con te per l'eternità. Amen. Amen.